Non credo che quella tra di noi fosse una rivalità personale. Ho sempre pensato che si trattasse soprattutto di una sfida tra Lakers e Celtics, tra le due squadre. Anche perché abitualmente non ci marcavamo direttamente in campo. Larry chiaramente era il centro del loro attacco e il nostro maggior problema in difesa. Ma credo che i veri duelli fossero altri, quello tra James Worthy e McHale o quello tra Parrish e Kareem. Io mi confrontavo direttamente con Dennis Johnson, anche perché eravamo i due play. Magari Larry era l'incubo di Michael Cooper, che doveva marcarlo. Ricordo che soffrimmo particolarmente per la sconfitta del 1984, perché era l'ennesima che i Celtics infliggevano ai Lakers. Era dura da mandare giù, ma ci diede la spinta per vincere l'anno dopo. Ma per me la rivalità era sempre tra Celtics e Lakers, non tra noi due.